La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. In questo martedì 24 di maggio sono le 16.32. Primi siamo in diretta, questa volta di Sud di Roma. Sono in diretta e grazie a tutti per l'ascolto. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, per segnalare temi di trasmissioni, osservazioni, candidare ospiti o proporvi voi stesse per raccontare pezzi di vicende che vi avvengono e che hanno naturalmente un interesse pubblico, secondo voi, da segnalare, di cose che funzionano ma anche che non funzionano, come ovvio. Allora, oggi la puntata è in particolare, in realtà riguarda tutti, perché siamo tutti soggetti che ricadono nel Servizio Sanitario Nazionale, però riguarda in particolare, mi interesserebbe, se fosse possibile, so che la questione è un po' difficile, ma se ci aspetta, se ci ascolta e vuole intervenire all'800240024 e darci la sua opinione con sms 349-238-6666, in particolare qualcuno che fa parte del mondo della produzione dei farmaci, perché oggi parleremo delle proposte che sono sul tavolo tra regioni e governo, perché ancora una volta, sorpresa, sorpresa, si sta sforando quanto era previsto nel Fondo Sanitario Nazionale per i farmaci. E le regioni da una parte e il governo dall'altra si devono confrontare su come si ripiana e chi ripiana. E naturalmente, ancora una volta, come capita in questo paese, una parte fondamentale si pensa di farla ripianare a chi i farmaci li produce. E il problema, come è evidente, sembra che allo Stato sfugga che se le procedure con i limiti di spesa vengono poste, le procedure vengono poste in essere dal pubblico, pare che il problema sia invece in chi fa l'offerta poi nelle gare, no? Non in chi le gestisce. Però questo è il punto di fondo. Naturalmente si tratta di una questione un po' complicata, a dire la verità, però siccome ci sono miliardi in ballo e riguardano noi tutti, l'essenziale è cercare di spiegare prima lo stato degli atti, cioè i numeri, in che cosa consiste questa spesa fuori controllo, di che cifra si tratta, e distinguerla nei due canali, cioè i farmaci di somministrazione diretta, quelli a ciascuno di noi con le prescrizioni mediche, e quelli invece che vengono utilizzati nel canale ospedaliero, e capire a quel punto quali sono le proposte che le regioni per ambo le parti stanno facendo al governo. Io ricordo a tutti, prima di presentare gli ospiti, che in questo caso io do atto che la notizia, la spiegazione la trovate per esteso in due pagine secondo me molto ben fatte stamattina sulla Stampa di Torino, quotidiano guidato dal direttore Maurizio Molinari, e trovate regione per regione gli estremi degli andamenti di spesa per i due distinti canali della spesa farmaceutica. Quindi è stato un approfondimento molto ben fatto dai colleghi della Stampa, onore a loro. E infatti, per spiegarvi bene di che cosa si tratta in termini numerici e poi le proposte, abbiamo innanzitutto appunto uno degli autori dei pezzi questa mattina sulla Stampa di Torino, dedicato appunto alla questione del tetto di spesa farmaceutica sforato, e cioè Paolo Baroni. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi per avermi chiamato. Allora, iniziamo dal ricordare, io mi limito a questo, poi lascio la parola a te, che noi abbiamo avuto con il governo Renzi, prima nell'estate, cioè pochi mesi dopo che era nato il governo all'inizio del 2014, un patto per la salute che era stato sottoscritto tra regioni e ministro Lorenzin, in cui l'andamento del Fondo Sanitario Nazionale era più accentuato. Poi c'è stata una stretta con le leggi di stabilità, il ministro Lorenzin da prima un po' ha protestato, poi insomma l'ha accettato, e secondo la stretta il Fondo Sanitario Nazionale, che è poco più di 111 miliardi, vedeva fissate per legge un tetto che era pari sul totale del Fondo Sanitario Nazionale al 14,8% del Fondo Sanitario Nazionale stesso. Che cosa ci dicono invece, Paolo, i dati della spesa concreta che è avvenuta nel 2015? I dati aggiornati a novembre 2015, sono gli ultimi dati, sono di marzo, quindi sono gli ultimi disponibili, ci dicono che la spesa farmaceutica ospedaliera, perché questo è il problema che il governo, le regioni e le aziende si devono affrontare, rispetto al preventivato è superiore di 1,6 miliardi, cioè il totale dovrebbe essere 3,6 miliardi di spesa massima, perché è il 3,5% del fondo nazionale, e invece supera il 5%, si va a 5,2 miliardi. La legge prevede che questo sforamento venga ripianato caricando metà della spesa, dei maggiori costi, alle imprese e metà dei costi alle regioni. Essendo 1,6 miliardi sono cifre insomma un pochettino importanti, tenendo poi presente che le aziende farmaceutiche, per tutti questi meccanismi di payback, di rimborso sugli sforamenti, devono già restituire alle regioni 1,8 miliardi, cifre non di poco conto, insomma. Già l'anno scorso, cioè nel 2014, c'era uno sforamento di 1 miliardo, e questo nonostante il tetto fosse stato alzato dal 3 al 3,5% dei fondi totali. Questo perché? Perché sulla spesa ospedaliera, sulla farmaceutica ospedaliera, si caricano i cosiddetti farmaci innovativi, anche magari forse in maniera un po' forzata, nel senso che non lo si fa passare dal canale delle farmacie, infatti il resto della spesa farmaceutica è sotto controllo sostanzialmente, ma esplode il canale ospedaliero. Il resto della spesa farmaceutica è, diciamo, sopra la linea per un po' meno di 300 milioni, quindi siccome però è significativamente più elevato della parte ospedaliera, è quasi sotto controllo. Anche qua ricordiamoci che sono stati aumentati i ticket ed è stata aumentata la quota di compartecipazione a carico dei cittadini, e quindi insomma sono due meccanismi che già disincentivano l'utilizzo dei farmaci e poi contribuiscono a riequilibrare quel tipo di conti, no? La farmaceutica ospedaliera invece non si riesce a governare, ed è un problema grosso, perché appunto su questa voce c'è la spinta dei nuovi farmaci, che sono molto spesso i più costosi. Al rovescio sono i farmaci che richiedono più investimenti da parte delle aziende, quindi se si, come dire, guarda, se si incide troppo su questo meccanismo, poi le industrie giustamente dicono: noi come facciamo a fare ricerca? Le aziende farmaceutiche che funzionano sono quelle che investono anche il 30% del loro fatturato in ricerca per produrre sempre nuovi prodotti, nuove molecole, nuovi principi, no? E ricordiamo anche che nell'evoluzione dei decenni il tempo tra l'investimento iniziale alla ricerca di nuovi principi attivi o molecole e poi tutto ciò che le legislazioni nazionali hanno nel tempo accumulato in base al principio di precauzione per le fasi diverse della sperimentazione, fino ad arrivare poi ai protocolli di sperimentazione in corpo umano e non sulle cavie, si sono molto molto allungati, e fino a che poi arriva il bollino delle AIFA, cioè delle autorità poi sul farmaco nazionale, possono durare addirittura decenni. Quindi il ciclo di business delle aziende farmaceutiche, soprattutto di quelle appunto più specializzate eccetera eccetera, è un ciclo di business che tra l'investimento e il realizzo dell'investimento ha coefficienti di incertezza molto elevati, per tutto quello che si può naturalmente verificare durante lo sviluppo della molecola, del principio attivo, poi del farmaco e nel corso della sperimentazione, perché ovviamente nel corso della sperimentazione possono emergere molte più patologie afferenti e controindicazioni di quanto si pensasse all'inizio. Solo molto più in là c'è l'eventuale ritorno sull'investimento. Questo lo diciamo a tutti perché fa parte di una tecnicalità che non tutti sono tenuti a sapere. E comunque già partecipano in una percentuale elevata. Sì, certo. No, ma è una cosa molto presente. Poi, diciamo, andando nel dettaglio dei conti, la Toscana sfora per 219 milioni. Altre regioni hanno cifre importanti, insomma, praticamente le sette, Toscana, Lombardia, Campania, Puglia, Lazio, Emilia Romagna e Sicilia sforano tutte per importi superiori ai 100 milioni, praticamente sette regioni fanno i due terzi dello sbilancio, dello squilibrio. Non è detto che siano sprechi, perché ogni regione decide, come dire, al meglio che tipo di terapia applicare. Ci sono regioni magari che hanno un approccio più, come dire, accomodante nei confronti dei malati, altre sono un po' più attente e rigide, oppure adottano altre politiche sanitarie. Non necessariamente lo sbilancio è spreco, cattiva gestione, può essere appunto una miglior cura. Detto fatto, esempio la Toscana fa impressione perché spendere 227 milioni ne spende 446. Cioè stiamo parlando di un ordine di grandezza 100% in più del preventivato. E così tutte le altre. La Campania dovrebbe spendere 335, ne spende 485. La Sicilia ne dovrebbe spendere 294, ne spende 400. La Puglia dovrebbe spenderne 239, ne spende 388. L'Emilia Romagna dovrebbe spenderne 267, ne spende 385. La Lombardia è la regione più grande, dovrebbe spendere 591, ne spende 799. A onor del vero, bisogna dire che invece come voce di spesa per la farmaceutica complessivamente, tra farmaceutica territoriale e farmaceutica ospedaliera, tre regioni sono in equilibrio. Il Veneto, perché risparmia molto sulla farmaceutica territoriale, quindi compensa il piccolo squilibrio che ha sulla farmaceutica ospedaliera, la Valle d'Aosta e la provincia di Trento. Cioè praticamente stiamo parlando di parti infinitesime del territorio nazionale, tranne il Veneto. Ora, tu ricordavi che in questo caso il meccanismo vigente prevede che metà dello squilibrio sia coperto da regioni, metà sia coperto dalle imprese. Nella metà che riguarda le regioni, con le regole attuali, il rientro rispetto a quanto si è sforato del tetto è proporzionale a quanto lo si è sforato oppure no? Devono farsi carico del ripiano dello sforamento e ovviamente in un bilancio regionale, per quanto largo, se pensiamo alla Lombardia, se deve farsi carico di metà dello sforamento sono 100 milioni di euro, insomma, non sono mica in un anno. Ho detto che già nel 2014 lo squilibrio era di 1 miliardo, quindi l'anno scorso, sempre nel 2014, mi sbaglio a dire l'anno scorso, ma mi sembra che la Toscana anche nel 2014 sforasse per 200 milioni circa. Sì, che poi loro nelle loro economie possono fare qualche aggiustamento, insomma sono cifre importanti. Però le cifre rispetto all'obiettivo. Di qui il braccio di ferro di tutti gli anni sul fondo complessivo, no? 111, 113, 110. Certo, perché serve sempre a coprire di quanto si è sfondato. Ricordiamo che il DEF, l'ultimo DEF varato dal governo, prevede anche per la sanità una riduzione in rapporto al PIL, ma un incremento molto controllato delle spese nell'ordine dell'1,5% in media annuo, 0,9 quest'anno, 1,2 nel 2017, 1,2 nel 2018. Una crescita che in termini reali resta di qualche frazione di punto percentuale inferiore alla crescita attesa del PIL nello stesso anno, secondo le previsioni del governo, e quindi significa che nel tempo è una riduzione in termini reali, anche se in termini monetari è un aumento anno per anno. E tra le proposte avanzate dalle regioni, perché poi dobbiamo sentire l'altra campana, al centro del confronto oggi, quali ci sono? Questa la racconta il collega Paolo Russo. Allora, l'idea delle regioni, le idee sono tante sul tavolo ovviamente, perché poi ci sono anche c'è un tavolo a Palazzo Chigi, il governo, il ministero, la presidenza del consiglio, insomma. Le regioni pensano di affrontare gli squilibri della spesa farmaceutica intervenendo sui farmaci rimborsabili. Vorrebbero bandire delle aste dove ottenere il prezzo migliore non sui generici. Ricordo che il farmaco generico ha lo stesso principio attivo del farmaco griffato, magari cambiano gli eccipienti, può cambiare la concentrazione di principio attivo, però è identico. Loro invece punterebbero su quelli terapeuticamente equivalenti, che vuol dire medicine diverse che curano la stessa malattia, lo stesso problema. Anche se sono diversi, non sono accumulabili ai generici non coperti da brevetti. Sono diversi e la differenza è che curano malati cronici, sono anche farmaci innovativi e così via, cioè farmaci che sono ancora nel ciclo in cui l'ammortamento dell'investimento per chi li ha realizzati non è affatto compiuto, per così dire. Quindi naturalmente il più, se capisco bene Paolo, se no correggimi, del meccanismo di correzione tra le diverse proposte avanzate dalla regione è a carico delle imprese. Sì, ma anche a carico dei pazienti, perché siccome sono aste vengono rinnovate tutti gli anni, quindi non è che tutti gli anni si può cambiare medicinale, non solo, non tutti rispondono allo stesso metodo con lo stesso medicinale. Adesso per una serie di patologie tu hai la possibilità di scegliere, ad esempio collega scrive che su alcune patologie hai 37 medicine, 38 medicinali diversi e 7 molecole diverse, no? Perché ognuno, come dire, reagisce e risponde in maniera diversa a un tipo di terapia. Adesso si andrebbe a un unico prodotto, che non è nemmeno il generico, ma è forse un prodotto che ti fa risparmiare ancora di meno, perché poi alla fine esatto. Allora, si ragiona sul prezzo. Allora, io spero che Paolo è stato bravissimo, che sia riuscito, cari ascoltatori, a farvi capire l'origine del problema, la quantità degli sforamenti, la distribuzione delle regioni, le regole attuali per rientrare a metà regione, metà impresa, le proposte delle regioni che significano soprattutto, no, soprattutto impresa. Allora adesso abbiamo un minuto di traffico e poi abbiamo con noi il presidente di Farmindustria per sentire che cosa ne pensano appunto le aziende di queste proposte. Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. Un focus oggi, grazie a un'ottima iniziativa, secondo me, di informazione della stampa di Torino sugli andamenti della spesa farmaceutica, gli sforamenti. Abbiamo parlato soprattutto dello sforamento che è più rilevante, quello del canale ospedaliero rispetto al territoriale. Abbiamo visto quali regioni sono. E il punto è: ma sto miliardo e sei adesso ce lo rimettono le aziende? Allora, secco secco, questa è la domanda che faccio al presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, che è con noi. Grazie di essere con noi, innanzitutto. Grazie a voi dell'invito. Allora ce lo mettete? Ma allora, questa cosa è una stortura che deriva da delle politiche fatte da governi precedenti, che hanno sempre usato la farmaceutica come uno strumento economico per recuperare dei soldi da quando servivano. Che cosa voglio dire? Oggi la spesa farmaceutica ospedaliera non è fuori controllo come tutti vogliono far credere, ma è sottofinanziata. Perché è sottofinanziata? Perché negli anni si è sempre ridotta la percentuale di tetto che era fissata sulla farmaceutica, ponendo a carico delle imprese il ripiano di un eventuale sforamento. Però bisognerebbe guardare i veri fabbisogni. È un po' come se io dicessi: quest'anno il fabbisogno è 100, allora io invece che mettere 100 metto 80, così spendo 80. E il resto mi viene restituito dal fornitore, che è l'impresa farmaceutica. Questo ovviamente è un problema che si pone, perché non credo che le aziende farmaceutiche che investono ingenti somme in ricerca saranno più disponibili a continuare con queste politiche quando ci vengono chiesti dei ripiani che a volte sono dell'ordine di 70-80 milioni di euro per impresa. Certe imprese certi livelli di profitto non ce li hanno per poterli restituire. Quindi le politiche del passato hanno fatto sempre in modo che i tetti venissero via via ridotti o venissero fissati in maniera insufficiente per portare a casa dei soldi a spese delle imprese. Io le dico una cosa: con tutto quello che è lo sforamento attuale e con i ripiani che ci sono, fino a ottobre la farmaceutica viene finanziata ai cittadini da parte dello Stato, da ottobre in poi, con i ripiani che abbiamo, la finanziamo noi. Perché il sottinteso è: voi fate i profitti sui farmaci che servono a far star meglio la gente. Beh, allora il sottinteso è questo. Il problema è che noi facciamo la ricerca, mettiamo a disposizione i farmaci, la ricerca è molto dispendiosa perché ci vogliono circa 2 miliardi e mezzo per sviluppare un farmaco. Ci vogliono 10-12 anni per sviluppare un farmaco e uno su 10.000 arriva sul mercato. Pensi che ci sono 4 fasi di studio dopo la fase 1, che è la fase per vedere se una molecola ha la possibilità di diventare un farmaco vero, le percentuali di successo sono del 4%. Quindi io credo che se continueremo con questa metodologia e questo approccio, la ricerca non la farà più nessuno. Credo anche un'altra cosa: ho sentito il dibattito, molto interessante, e credo che il discorso di mettere in gara i farmaci, tutti quelli che hanno una stessa indicazione, ne teniamo solo uno, beh, non è solo un problema di ricerca, non è solo un problema di industria, io parlo da cittadino e parlo da paziente, è un problema di salute pubblica, perché credo che ogni farmaco si sia adatto a un paziente sì, a un altro no, a un no, altro no, un ma po', certo. lo decide il medico. Lasciare un amministrativo il farmaco, la scelta del farmaco che deve essere utilizzato attraverso la gestione delle aste, perché questo avverrebbe attraverso la gestione delle aste, è una follia, tra l'altro tutta italiana, che non ha riscontro in Europa. Esatto, questo non c'è da nessun'altra parte. Ha problemi di legge e di, credo anche di costituzionalità. Qui non stiamo parlando, ripeto, dei generici non griffati, qui stiamo parlando di quelli terapeuticamente equivalenti, sono proprio un'altra classe di farmaci per tutt'altro tipo di esigenze. Però io le faccio anche questa domanda, la faccio anche a Paolo Baroni. Io ho l'impressione che di anno in anno questo fattore si ripropone, perché le regioni sistematicamente mettono l'asticella più in alto, questo Paolo già lo ricordava. Secondo Scaccabarozzi è un problema vero di aumento della farmaceutica che deve essere maggiore per coprire una domanda che segue a questo punto la curva demografica italiana e quindi un significativo andamento nel tempo verso l'alto delle patologie eccetera eccetera, o c'è invece anche un fattore di incapacità nella gestione del procurement da parte pubblica? Lei che dice, Scaccabarozzi? Allora, l'incapacità nella gestione del procurement da parte dell'ente pubblico non c'è, perché noi abbiamo un'agenzia italiana del farmaco che negozia e determina i prezzi dei farmaci negoziandoli con le aziende, e questi farmaci mediamente costano meno che negli altri paesi d'Europa del 15%. Il problema è che non si tiene conto del finanziamento, che è insufficiente, come dicevo prima, e dell'andamento demografico. Noi siamo un paese che ha sempre più, che è sempre più longevo, e se pensiamo che la maggior parte della spesa sanitaria la spendiamo dopo i 65 anni, è chiaro che si porrà questo problema sempre di più. Se si vuole farlo, se si vuole finanziare questa parte facendola pagare alle imprese, bisognerebbe chiedere alle imprese che cosa si vuole, se si vuole ricerca, nuovi farmaci, nuove soluzioni, certo. oppure se smantelliamo la ricerca in Italia, perché poi c'è questo la è la conseguenza. Questo tenendo poi il problema. Presente che la ricerca non oggi ci lamentiamo di guarire dall'epatite, dalla non ci lamentiamo della delocalizzazione, se la trattiamo così. Qual è la risposta di Paolo Baroni alla stessa domanda? Beh, guarda, sì, certamente ha ragione Scaccabarozzi, la prospettiva è che ci sarà sempre più spesa sanitaria. Tra l'altro, io nell'articolo di oggi cito il sottosegretario della Presidenza De Vincenti, che ammette che la spesa sanitaria farmaceutica è sottofinanziata, ecco, dice anche che è ingestibile, e quindi, come dire, bisognerebbe un attimo forse farci una riflessione profonda, ecco, sì, e forse non solo le regioni e il governo, ma anche le aziende. Allora, io questa era esattamente la conclusione che logicamente avevo dedotto dagli articoli, ripeto, dalla stampa di Paolo Baroni e Paolo Russo. Io ringrazio Scaccabarozzi. Guardate, questa non è una trasmissione perché Confindustria difendiamo le aziende. Qua si tratta di capire che sanità e che farmaci vogliamo, riguarda noi tutti, perché far sparire il numero così radicalmente di quelli terapeuticamente equivalenti è una cosa che a me terrorizza, per quello che ho avuto nella vita. Comunque, continuate su Radio 24, grazie ai nostri ospiti, ci sentiamo domani mattina alle 8:15 con me, Alessandro Minella, attenti a noi due.